in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Una rassegna stampa questa mattina che, come era facile anche immaginare, dà ampio spazio soprattutto a due temi. Il primo, decisamente prevalente su tutte le prime pagine, è quello delle decisioni del sinodo, del documento finale con cui in sostanza, in estrema sintesi, si apre alla comunione per i divorziati. Questo è ad esempio il titolo principale del Corriere della Sera. Il sinodo apre sulla comunione ai divorziati, sia il testo con un voto di scarto, viene riassunto in prima pagina, si valuti ogni caso. L'invito del Papa, niente condanne e anatemi. Su Avvenire vi segnalo già subito in apertura, naturalmente trattandosi del quotidiano della CEI c'è ampio spazio, ma soprattutto c'è sia il discorso, è possibile leggere sia il discorso tenuto da Papa Francesco ieri, sia il documento con cui si è concluso il sinodo, quindi una attenzione ai documenti da parte di Avvenire per questo momento di chiusura del sinodo. Il titolo principale del quotidiano è "Con tutte le famiglie senza condanne", un titolo che viene posto su una foto, una bella foto di Papa Francesco che riceve, che saluta dei fedeli, anche in particolare dei bambini molto piccoli, e comincia proprio in prima pagina di Avvenire il discorso del Papa, in cui si legge tra l'altro. Il discorso viene intitolato "Gli occhi di Dio", dice: sicuramente con il sinodo non significa aver trovato soluzioni esaurienti a tutte le difficoltà e ai dubbi che sfidano e minacciano la famiglia, ma aver messo tali difficoltà e dubbi sotto la luce della fede, averli esaminati attentamente, averli affrontati senza paura, senza nascondere la testa sotto la sabbia. Prosegue il discorso di Papa Francesco dicendo: significa aver sollecitato tutti a comprendere l'importanza dell'istituzione della famiglia e del matrimonio tra uomo e donna, fondato sull'unità e sull'indissolubilità, ad apprezzarla come base fondamentale della società e della vita umana. Quindi, come avete ascoltato anche prima nel corso del nostro giornale radio, da una parte una significativa apertura per la comunione dei divorziati, dall'altra il ribadire però la famiglia come famiglia composta da uomo e donna. Il discorso completo, ripeto, del Papa e anche il documento finale del Sinodo sono riportati integralmente su Avvenire, che trovate in edicola questa mattina. L'altro tema di cui si discute molto sui quotidiani di oggi nelle prime pagine è quello della legge di stabilità. Disegno di legge di stabilità, proprio a voler essere un pochino pedanti, ma d'altra parte anche per ricordare che stiamo parlando di proposte. Proposte che il governo sottopone al Parlamento per i prossimi 3 anni, per l'andamento della nostra economia e anche della nostra vita quotidiana, trattandosi di decisioni e disposizioni che poi interesseranno un po' tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana per il prossimo triennio. Che è successo? Allora, tutta questa settimana, come sapete, c'è stata attesa per vedere il testo definitivo di questo disegno di legge, il testo che deve essere portato in Parlamento. Il testo arriverà domani in Senato, però finalmente si è reso disponibile. Sul Sole 24 Ore abbiamo dato già nei giorni scorsi una serie di anticipazioni, poi rivelatesi confermate, e adesso che c'è una disponibilità di un testo, per così dire, stabile, anche se non ancora con l'ufficialità della consegna alle Camere, si comincia a fare dei ragionamenti su come funziona, cioè questo disegno di legge di stabilità, dove va a prendere il denaro, dove cerca invece di tagliare o di intervenire, come insomma cambia gli equilibri delle nostre attività. E naturalmente le letture sono molto contrastanti a seconda della ispirazione del quotidiano che le riporta. Ad esempio su Libero: scoperto il bluff di Renzi, il governo confessa 54 miliardi di tasse in più. Nella relazione tecnica della manovra è scritto che dopo un minimo calo nel 2016 la pressione fiscale salirà moltissimo per effetto dell'aumento di IVA e benzina. I tagli di spesa veri appena 1,9 miliardi, questo il titolo di Libero. Allora, per par condicio, come si usa fare in tempi di campagna elettorale, ma ci adeguiamo anche in questo caso, vi leggo il titolo invece dell'Unità, ovviamente l'unità che è più vicina, che è naturalmente vicina alle posizioni governative, se 18 miliardi vi sembrano pochi, sono le tasse che pagheremo in meno dal 2016 grazie alla legge di stabilità. La manovra blocca gli aumenti di IVA e accise, toglie la TASI, la tassa sui servizi, la tassa comunale sui servizi, e riduce il costo del lavoro. Tra l'altro sui giornali è possibile anche trovare, ad esempio proprio sull'Unità, un riassunto di tutte le misure contenute nel disegno di legge di stabilità, dal canone RAI, dal famoso canone RAI, che abbiamo saputo allora la proposta è pagarlo con la bolletta ma in unica rata, e via via andando per tutte le varie misure, anche quelle per le imprese, tipo l'incentivo per l'acquisto di nuovi beni con un ammortamento accelerato e molto altro ancora. Lo trovate ad esempio sull'Unità. Chi ha ragione? Ci sono nuove tasse, non ci sono nuove tasse, c'è un aumento? Allora, nel forum che abbiamo ospitato in questa settimana, nei giorni scorsi, sul Sole 24 Ore, un forum con il ministro Piercarlo Padoan, abbiamo potuto capire che c'è un congelamento di alcune misure che sarebbero scattate automaticamente, le cosiddette clausole di salvaguardia, ma dall'altra parte c'è anche un rinvio di queste di clausole di salvaguardia. Quindi, detto molto sinteticamente e brutalmente, per il 2016 questi rincari di IVA, soprattutto accise, non scattano, rimangono però, incombono in qualche modo di qui al 2017, ma naturalmente la speranza del governo, ma un pochino anche di tutti noi, è che le cose vadano un po' meglio e che grazie a una ripresa più stabile, più consolidata, si possa intervenire. Passo al Sole 24 Ore, che entra nel dettaglio di una parte importante del disegno di legge di stabilità: il lavoro, le misure per l'occupazione. Lavoro, cosa cambia per privati e statali, è il nostro titolo principale questa mattina. Viene prorogata al 2016 la cassa in deroga per le piccole e medie imprese, doveva essere superata dal 2016 ma viene prorogata. La manovra arriva in Parlamento e poi nella pubblica amministrazione premi congelati fino all'attuazione della riforma Madia. Questo il titolo principale, e poi naturalmente oggi sul nostro quotidiano ospitiamo l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo ricordava prima la collega nel corso del giornale radio, dedicato alla chiusura dell'Expo, perché sabato prossimo avremo la conclusione della manifestazione, si cominciano a intravedere qua e là sui giornali i primi bilanci, che si alternano ovviamente secondo che si voglia vedere. Indubbiamente il successo da parte dei visitatori, anche negli ultimi giorni c'è stata una folla molto ampia, molto numerosa in visita, oppure che si voglia vedere il trascinamento sulle economia del territorio e poi in generale sull'economia italiana. Intervento del Presidente della Repubblica che dice, soprattutto esorta a sfruttare i lati positivi di Expo, dicendo: veniamo dalla più lunga e grave crisi dal dopoguerra, avvertiamo finalmente segni di ripresa, dobbiamo lavorare insieme pur nel rispetto di opinioni e interessi legittimamente diversi per rafforzare gli indici positivi e trasformarli in opportunità per tutti, a cominciare dai più giovani. Per far questo è necessario che tanti lavorino alle connessioni. Quindi il richiamo del Presidente della Repubblica anche in occasione della chiusura di Expo per le questioni legate al lavoro. E allora una breve citazione per le pagine interne oggi del Sole 24 Ore: le misure appunto per il lavoro. Tra queste misure, quelle della decontribuzione che viene prorogata, cioè un incentivo alle aziende perché assumano a tempo indeterminato, e poi i nuovi premi di produttività e soprattutto una misura sul welfare aziendale, cioè quelle misure di sostegno ai dipendenti che possono sostanziarsi poi in asili nido, in facilitazioni per l'accesso alle cure mediche ed altro ancora. Ebbene, le misure contenute nel disegno di legge di stabilità che, come abbiamo detto all'inizio, dovrà essere ora approvato e discusso in Parlamento. perché torno ancora su questo punto, non è pedanteria, ma è perché, ancora sul Sole 24 Ore, Marco Mobili segnala quelle che potrebbero essere le partite più delicate della legge di stabilità, cioè di che su che cosa il Parlamento cercherà di intervenire. Sulle pensioni, perché c'è una, come sapete, una proposta di allargare ai cosiddetti esodati, coloro che sono rimasti senza lavoro e senza pensione dopo la riforma decisa dal governo Monti a fine 2011, dalla cosiddetta riforma Fornero. C'è una settima salvaguardia in arrivo, ma esposta a rischi di allargamento. La Camera potrebbe decidere un'estensione, questo significherebbe però ulteriori entrate. E poi, naturalmente, il contestato aumento del tetto all'uso del contante, che attualmente è a 1.000 euro, verrà portato, questa è la proposta della legge di stabilità, a 3.000 euro. La misura viene contestata perché sarebbe favorevole, secondo i suoi critici, a una maggiore evasione. E poi la casa, dove questa abolizione della TASI e dell'IMU per la prima casa non convince completamente soprattutto la minoranza, la sinistra del Partito Democratico. Infine i giochi, perché come sappiamo c'è stato un po' di polemica, c'è stata un po' di polemica in questi ultimi giorni, si aprono nuove sale giochi, il governo ha ribadito non è così, in realtà si mettono all'asta concessioni che stavano scadendo. In ogni caso, questo dei giochi, delle slot, resta un punto delicato della legge di stabilità. Noi ora dobbiamo fermarci per qualche minuto, ascolteremo anche le previsioni del tempo e naturalmente poi nella seconda parte i titoli e alcune indicazioni sui giornali di oggi. A tra poco. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta In Primo Piano. Bentornati, ancora una buona domenica da Mauro Meazza, sono le 7.33 minuti 35 secondi, lo ricordo perché questa notte abbiamo portato le lancette indietro di un'ora e quindi dobbiamo assuefarci adesso a questo cambiamento, questo piccolo cambiamento di orario. Leggendo i giornali di oggi, naturalmente, come vi dicevo già nella prima parte della nostra rassegna stampa, spiccano le decisioni, le indicazioni, è meglio dire, del documento finale del Sinodo. Questa comunione consentita per i divorziati, anche se appunto il consenso è poi lasciato alla valutazione del singolo confessore. Il sinodo approva il testo sulla famiglia, sia la comunione dei divorziati, è il titolo del Messaggero. Ostia a chi si è risposato, passa per un solo voto, ma si dovrà valutare caso per caso. E poi ancora sul Messaggero, naturalmente, la vicenda del sindaco di Roma Ignazio Marino. Ha annunciato le sue dimissioni, ma potrebbe anche fare marcia indietro. Oggi c'è una manifestazione prevista per i suoi sostenitori. Marino non cede, questo è il titolo in prima pagina del quotidiano romano. Il Partito Democratico è pronto all'espulsione. E allora leggiamo un attimo dalle pagine interne. Marino non cede e va in piazza. Le dimissioni, seguo la legge. Il sindaco vuole la prova di forza in aula, oggi incontra di nuovo i suoi sostenitori. Riferisce Fabio Rossi nell'articolo che trovate sul Messaggero. Alla sceneggiatura mancano solo le atmosfere caravaggesche di intrigo internazionale, il cameo di Alfred Hitchcock, chiedo scusa. Poi, se il finale sarà all'altezza, Ignazio Marino potrà iscriversi di diritto al club dei maestri del thriller. La scena madre oggi si svolgerà in Piazza del Campidoglio, dove 14 giorni dopo il primo sit-in spontaneo torneranno a manifestare i sostenitori del chirurgo Dem, il quale osserverà tutto dalle finestre di Palazzo Senatorio valutando l'ultimo colpo di teatro, quel possibile ritiro delle dimissioni che porterebbe il pallino della crisi nelle mani dei 19 consiglieri comunali Dem, ben poco desiderosi di doversi sobbarcare il compito di staccare la spina alla consiliatura. Lui, sindaco dimissionario ma non troppo, continua a tirare dritto, presiede giunte, organizza eventi in periferia per Capodanno, inaugura strade appena ristrutturate. A chi gli chiede se ci stia ripensando e sia tentato dalla resa dei conti con il PD, risponde con una frase standard: sto facendo quello che dice la legge. Cosa dice la legge? Prendersi 20 giorni di tempo, che scadranno il 2 novembre, per confermare o ritirare le dimissioni presentate formalmente il 12 ottobre. Allora vedremo se il sindaco di Roma, dimissionario, nel senso che lui stesso ha annunciato le sue dimissioni, farà questa marcia indietro. Ci sarà da valutare quale potrà essere il sostegno della manifestazione. Sulla materia, sulla questione Marino, peraltro ironizza in modo anche pesante la prima pagina di Libero, che con una vignetta dice: Marino schiera i cloni per incollarsi alla sedia, dubbi sui veri numeri dei suoi sostenitori in rete. Secondo le indicazioni, appunto le indiscrezioni di Libero, la campagna a sostegno di Marino sarebbe in parte orchestrata da Marino stesso, questo già dalla prima pagina e poi nelle pagine interne di Libero oggi, questa mattina in edicola. Vorrei tornare un istante sulle questioni relative alla manovra, perché uno dei punti che viene segnalato dal Messaggero è quello dei manager pubblici e dei dipendenti, ridotti gli stipendi. Nella manovra un tetto per le società partecipate, se si intende società partecipate dai comuni, e tagli lineari per oltre 7 miliardi, 3 miliardi e 100 di tagli per i ministeri. Questo il dettaglio della manovra. In tutto questo balletto di miliardi, non so quanto ci faccia piacere leggere sempre sul Messaggero: raddoppiati i fondi per la scuola, ma i genitori fanno ancora le collette. Secondo Lorena Loiacono, gessetti e fogli di carta, rotoli di carta igienica e toner per le stampanti, ma anche cartine geografiche, scope e detersivi. Insomma, tutto ciò che serve al funzionamento della scuola, che fino a oggi è stato a carico delle famiglie e degli studenti, tutto puntualmente acquistato dai presidi con il contributo di mamma e papà. E scuola, fondi raddoppiati, si legge poi l'articolo all'interno, nelle pagine interne del Messaggero, ma non si rinuncia alle collette dei genitori. Sono in arrivo, ricorda Lorena Iacono, 233 milioni, ma gli istituti chiedono ancora contributi alle famiglie, chi ripara i bagni rotti, chi organizza stage all'estero. In media ogni preside avrà 10.000 euro in più da spendere. Non è decisamente una cifra sontuosa per una scuola, specialmente per il suo mantenimento non solo quotidiano ma anche per opere di manutenzione straordinaria che possono presentarsi. Una novità apprezzabile, dicono i presidi, coprirci tutti i costi però sarà difficile. E allora in questo balletto, appunto, vi dicevo, di miliardi di tagli e non tagli decisi, annunciati dal disegno di legge di stabilità, restano ancora però problemi noti, problemi annosi, ad esempio quelli riferiti al buon funzionamento delle scuole. Poi c'è anche spazio per i problemi dell'Agenzia delle Entrate, i problemi del fisco. Come sapete, negli ultimi giorni il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha usato toni molto duri, ha detto le agenzie rischiano di morire, si riferiva alle previsioni per il rinnovo del contratto, alla mancanza della previsione di un comparto apposito per le agenzie fiscali. Però oggi il Messaggero, sempre con Andrea Bassi, scrive di una lettera degli uffici di Padoan del Ministro dell'Economia alla Orlandi, che chiedeva massima urgenza per la procedura dei dirigenti. E però il governo resta comunque freddo, anzi non c'è un però, il governo resta comunque freddo sul capo delle entrate, cioè con la dottoressa Orlandi, che ha paventato appunto la morte delle agenzie. Questo ci porta a Repubblica, dove c'è una retroscena scritto da Valentina Conte proprio sulla posizione di Rossella Orlandi. Spiazzata dalle scelte del governo sul contante, messa in un angolo della Corte Costituzionale con 767 dirigenti decaduti, molti dei quali in fuga verso il privato, dipinta come amante del blitz, l'Agenzia delle Entrate si sente sotto assedio. Il titolo: lotta all'evasione, Orlandi isolata si sfoga, solo la dedizione dei miei ci salva. Il nuovo concorso, la questione dei dirigenti decaduti che dovrebbe sanare la situazione, non si riesce a organizzare, almeno non prima del 27 di novembre, quando cioè il Consiglio di Stato si esprimerà sul terzo bando che è stato messo in questione dalla sentenza della Consulta sui dirigenti che sono stati promossi con procedure interne. Vi segnalo Rapidamente, una cosa che trovate oggi sul Sole 24 Ore è un contributo di Giovanni Negri che ci segnala appunto come nella proposta a cui sta lavorando una commissione Vietti, ci potrà essere una revisione, una riduzione delle corti d'appello per quanto riguarda il nostro sistema giudiziario. La fase 2 della riforma giudiziaria, della riforma della geografia giudiziaria, investirà le corti d'appello, andrà a configurare un modello sostanzialmente monoregionale. In futuro, cioè, potremo avere una sola corte d'appello per ogni regione. Alcuni distretti, scrive Giovanni Negri oggi sul Sole 24 Ore, degli attuali 23, oltre a insistere sulla medesima regione, hanno infatti bacini di utenza assai esigui e potranno essere accorpati. È la proposta che sta prendendo una fisionomia più definita nel corso dei lavori della Commissione Vietti istituita dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando. La Commissione dovrà terminare i lavori entro fine anno per dare modo di presentare poi l'articolato in Parlamento. Questa indiscrezione arriva dal congresso dei giovani avvocati che oggi leggeranno il nuovo presidente per il prossimo biennio e i dettagli poi vengono appunto riferiti anche in una scheda accanto a questo articolo di Giovanni Negri sul Sole 24 Ore di oggi. Uno sguardo alla settimana che si, economica soprattutto, che si va ad aprire domani. Rally di borsa e mini tassi al test della Federal Reserve è il titolo dell'articolo di Vito Lops oggi sul Sole 24 Ore. Che succede settimana prossima? Allora, il 27 e il 28 si riunisce la Federal Reserve, rialzerà i tassi, non li rialzerà, gli analisti sembrano abbastanza concordi nel dire non li toccherà, e poi il 30 ottobre toccherà alla Bank of Japan, alla Banca del Giappone, decidere la sua politica sui tassi e sugli stimoli monetari. Grandi decisioni appunto delle banche centrali che poi finiscono per riflettersi sul corso dei mercati, ma un po' anche sulle aspettative nostre, persino appunto sulla bontà e sulla tenuta delle proposte della legge di stabilità di cui tanto discutiamo. E naturalmente quello che è sotto osservazione sono i piani di quantitative easing, cioè, come spiega l'Ops, stampare moneta con cui comprare titoli di Stato e bond privati per dare nuova linfa all'economia reale. La BCE ha già detto che nel dicembre è pronta a intervenire con un'ulteriore iniezione di liquidità, questo da parte della Banca Centrale Europea. Il 27 e 28 ottobre, come vi dicevo, la Federal Reserve si riunisce per valutare ancora una volta se è il caso di alzare i tassi, e se lo facesse sarebbe la prima volta dal 2006. E poi il 30 ottobre ci sarà la Banca del Giappone. I rialzi dell'indice di borsa Nikkei possono essere letti anche come una pressione verso le autorità giapponesi affinché non smettano di pompare la manna di liquidità. Questo sul Sole 24 Ore come analisi della situazione che si prospetterà da domani mattina alla riapertura delle borse. Già vi dicevo dell'intervento del Presidente della Repubblica appunto sulla speranza di Milano, capitale europea e motore dell'Italia. Ora però è il momento di fermarsi e ascoltare il traffico. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta In Primo Piano. Clinica da Mauro Meazza, 7:46 minuti, 57 secondi. La lettura dei giornali di questa mattina in edicola. Vi segnalavo già poco fa che la prossima settimana sarà quella in cui si concluderà Expo. Expo, una manifestazione che per sei mesi è stata molto importante, molto discussa, anche ci sono state polemiche, e comunque è stato un successo sicuramente di visitatori. Ci auguriamo sia stato poi, che i dati ci confermino, sia stato un successo anche per le attività non solo del territorio milanese ma complessivamente per l'economia italiana. La Stampa decide di segnalare il conto alla rovescia con una foto, una grande foto di una folla decisamente numerosa ieri ai cancelli di Expo, ai tornelli di Expo. Conto alla rovescia per il maxi evento pop Expo Ultimo Salto, e in fila spiega anche più di sei ore per visitare i padiglioni. All'interno, nelle pagine interne, due pagine dedicati appunto al fenomeno Expo, esserci stati conta più di quel che si è visto. Alberto Mattioli firma un lungo articolo, accompagnato poi da una analisi sul sentimento, sul gradimento complessivo ricavabile ad esempio dai social network per la manifestazione. Articolo di Stefano Rizzato. Sui social network, scrive La Stampa, Milano è già promossa, positivi 8 giudizi su 10. Una ricerca su Twitter, la rete ha decretato il successo della manifestazione a luglio. C'è stato uno studio da parte di esperti di sociometrica ed expert system diretti dal sociologo Antonio Preiti, come riferisce Rizzato sulla Stampa. Hanno preso in esame tutti i messaggi pubblicati su Twitter con la parola chiave Expo 2015 ed Expo e fanno in tutto oltre 468.000 tweet, cioè messaggi tra il 1° maggio e il 21 ottobre, e analizzando questi messaggi appunto si ricava un giudizio positivo sulla manifestazione. La calca, ha detto il ministro Martina ieri, dimostra che abbiamo lavorato bene, l'Italia ne uscirà rafforzata nella sua credibilità. Tra i padiglioni della calca, anche nelle pagine interne della Stampa, un'immagine di questa folla decisamente numerosa, fitta, che ieri si è recata a Expo, una manifestazione quindi che sicuramente potrà andare ad archiviarsi con un successo di pubblico. Anche per la Stampa le polemiche sui tagli o non tagli della legge di stabilità in prima pagina, solo 3 miliardi tagli ai ministeri e per il pubblico impiego una stretta sul turnover. E poi le elezioni, perché ci sono elezioni importanti in vari paesi, in più paesi del mondo. Per la Stampa in prima pagina la segnalazione delle elezioni in Polonia, oggi al voto il vento della destra anti-Europa, l'inviata a Varsavia Monica Perosino che riferisce appunto di questa sensazione di affermazione possibile della destra nonostante il buon clima complessivo che c'è nel paese. E poi in Argentina, l'Argentina già rimpiange l'ultima Evita, Filippo Fiorini da Buenos Aires. Ma sul Corriere della Sera c'è anche spazio nelle pagine interne per il voto in Egitto, le elezioni nell'arco di 3 mesi e il piano del presidente generale Al-Sisi per diluire il dissenso, un voto lungo 47 giorni, quasi 2 mesi per completare il processo elettorale per il rinnovo del Parlamento egiziano. Nella storia, dice Lorenzo Cremonesi, ci sono state elezioni più tortuose, ma rispetto ai record moderni il voto egiziano è molto più lungo della maratona democratica indiana del 2014. È uno dei tanti accorgimenti del regime per tenere sotto controllo la tensione, osservano a bassa voce i giornalisti egiziani censurati. Quindi 3 elezioni importanti in Egitto, ma anche oggi in Polonia e in Argentina. Stiamo un secondo sul secolo XIX, il titolo d'apertura è quello del sinodo, cade il divieto ai divorziati, comunione si deciderà caso per caso, ma il secolo XIX ci interessa particolarmente anche perché ci dà gli sviluppi del caso di Sanremo. Ricorderete questi dipendenti comunali che sono stati arrestati per comportamenti scorretti sul luogo di lavoro, appunto timbravano e poi si recavano ad altre attività che non erano quelle lavorative. Che succede? Ci dice Claudio Donzella che il comune adesso sta cercando di riorganizzare il servizi per i cittadini, sposta i superstiti pur di tenere aperto, valzer di trasferimenti in tutti gli uffici, all'anagrafe mancano 8 dipendenti su 20 e infatti, come scrive Claudio Donzella, già oggi ci sarà una ridistribuzione degli incarichi tra i dipendenti per evitare la paralisi. Biancheri, il sindaco, è determinato a difendere la sua amministrazione civica di centrosinistra, per cui dopo aver visto Facebook e altri social network invasi di commenti devastanti sul comune, sugli amministratori, sui dipendenti, ha scelto una mossa inedita. ha comprato a sue spese una pagina intera di giornale oggi per rivolgersi direttamente ai cittadini, spiegare cosa ha fatto e cosa intende fare. Insomma, il contrattacco in qualche modo del sindaco, che cerca di reagire operativamente ma anche mediaticamente alla crisi generata da appunto questi arresti di massa al comune di Sanremo. Torniamo sull'Unità, perché ci riferisce Anna Paola Concia di un'associazione che si è costituita a Roma, associazione Italian Sounding, un'associazione che ha l'obiettivo di contrastare il commercio di alimenti spacciati per nostrani. L'abbiamo visto anche a Expo, proprio c'erano delle mostre, delle iniziative per segnalare come spesso nel mondo vengano utilizzati dei nomi dal suono italiano, da cui appunto Italian Sounding, per vendere prodotti per lo più alimentari, ma non solo alimentari, dando così loro una patina di italianità che serve a migliorarne le fortune commerciali. Nell'ultimo minuto rimasto a disposizione vi voglio dare una segnalazione dalla Gazzetta Sportiva, una segnalazione che dice Inter a metà come titolo principale, e si riferisce al pareggio di ieri 1-1 contro il Palermo, ma soprattutto perché oggi ci sarà Fiorentina-Roma, importantissima, perché tra la Fiorentina capolista e appunto la Roma che insegue a un punto. E poi le questioni in casa Milan: se fallisco serve l'esorcista, dice Sinisa Mihajlovic, e poi il dubbio sul portiere, potrebbe entrare Donnarumma. Ma oggi è anche il giorno in cui Lewis Hamilton, e lo riferisce, lo annuncia, lo segnala la Gazzetta dello Sport, potrebbe già diventare campione del mondo di Formula 1 a Austin nel Texas, dove ci saranno le qualificazioni questa mattina per via della pioggia, non si sono potute svolgere ieri. E con questo è tutto, buona domenica a tutti da Mauro Meazza.